La conoscenza è un male, la nascita è immonda, la morte è santa. Come abbiamo visto nel racconto di Genesi, su come Adamo ed Eva siano condannati in eterno per avere disobbedito a Geova, che aveva ordinato loro di tenersi alla larga dall'albero della conoscenza, qualsiasi ribellione contro l'autorità della classe sacerdotale maschile al potere e per decreto di Geova contro gli uomini in generale, si trasformava in un peccato atroce. Sia l'autoritarismo che il dominio maschile venivano ampiamente giustificati con gli stessi precetti che i moderni totalitaristi, effettivi o potenziali, appartengano essi alla destra ateistica o alla sinistra atea, continuano a predicare ai loro seguaci. Non pensate, accettate ciò che è, accettate ciò che l'autorità dice che è vero. Soprattutto non usate la vostra intelligenza, i poteri della vostra mente per farci domande o ricercare una libera conoscenza, perché se lo fate, la vostra punizione sarà davvero orribile. Ma mentre nella Bibbia questa disubbidienza all'autorità, questa audace ricerca di una conoscenza imparziale del bene e del male vengono fatte apparire come il più abominevole dei delitti, generalmente viene perdonato il crimine di uccidere e rendere schiavi i propri simili, di distruggere e impossessarsi delle loro proprietà. Uccidere in guerra è infatti sancito divinamente. E lo stesso dicasi della razzia, dello stupro di donne e bambine, della distruzione di intere città. Anche la pena di morte per ogni genere di reati non violenti, tra cui si includevano quelli sessuali, viene presentata come uno strumento di giustizia voluto da Dio. E persino l'omicidio premeditato di un fratello da parte dell'altro non è una colpa grave come quella di mangiare dall'albero della conoscenza. Infatti l'umanità non viene condannata alla sofferenza eterna per l'uccisione di Abele per mano del fratello Caino, ma perché Eva, di sua iniziativa e senza autorizzazione, assaggiò il frutto del bene e del male. Mentre lo spargimento di sangue, uccidendo e ferendo altri esseri umani, nelle guerre e in punizioni brutali e nell'esercizio dell'autorità praticamente assoluta dell'uomo su donne e bambini, diviene la norma, l'atto di dare la vita diventa ora corrotto e impuro. Nell'Antico Testamento, inseriti tra gli atti di purificazione per la lebbra e le carni pure o impure, troviamo anche quelli per la nascita dei bambini. In Levitico 12 si legge che una donna che ha messo al mondo un figlio deve essere purificata ritualmente, altrimenti la sua impurità, tra virgolette, contaminerà le altre. Ciò comporta non solo il suo isolamento, ma anche un pagamento di tributi ai sacerdoti e certi atti rituali. Solo dopo aver fatto un'offerta sacrificale al sacerdote all'ingresso del tabernacolo di convegno che lo offrirà al Signore, farà per lei l'espiazione. Ella potrà essere dichiarata di nuovo pura. E così, prima in Mesopotamia e a Canaan, poi nelle teocrazie di Giudea e Israele, la guerra, il governo dispotico e la sottomissione delle donne divennero parte integrante della nuova società dominatore e della sua morale. Grazie a un'abile rimitizzazione, la conoscenza venne resa peccaminosa. Persino la nascita diventò immonda. In poche parole, la nuova rotta della nostra evoluzione culturale era stata tracciata con un tale successo che la realtà era ormai completamente ribaltata. Tuttavia, quando riconsideriamo la storia, persino quella raccontata da storici, filosofi e sacerdoti al servizio dei loro potenti signori, troviamo l'antica mente, la prima mente dell'umanità, quando il corso dell'evoluzione era totalmente differente, che lotta per riaffermarsi. La grande dea, il cui culto un tempo era il nucleo ideologico di una società più pacifica e ugualitaria, non è del tutto scomparsa, anche se non è più il principio supremo che governa il mondo. Ella è ancora una potenza considerevole che persino durante il Medioevo europeo viene venerata come madre di Dio. Nonostante secoli di proibizioni profetiche e sacerdotali, il suo culto non è mai stato del tutto soffocato. Come Horus e Osiride, come Helios e Dioniso, come molto prima di questi il giovane dio di Ctal Hiuk e come la giovane dea Persefone o Core negli antichi misteri eleusini, anche Gesù è il figlio di una madre divina. Egli è in effetti ancora il figlio della Dea e come i precedenti figli divini di quest'ultima rappresenta la rigenerazione della natura tramite la sua resurrezione che avviene appunto ogni primavera a Pasqua. Proprio come un tempo, il figlio della Dea era anche il suo consorte, anche nella mitologia cristiana, Cristo è lo sposo di Maria, madre chiesa che è e rimane sua madre. Il fonte battesimale o calice, così importante nei riti cristiani, è ancora l'antico simbolo femminile del vaso o contenitore di vita, il battesimo, il ritorno all'utero misterioso della grande madre e alla sua acqua di vita. Oggi sappiamo che persino il compleanno scelto per Gesù, quello vero è storicamente sconosciuto, naturalmente, è un'usurpazione di festività un tempo dedicate al culto della Dea. Il periodo del Natale fu scelto perché questa era l'epoca dell'anno in cui gli antichi tradizionalmente celebravano il solstizio d'inverno, il giorno in cui la dea fa nascere il sole, solitamente tra il 21 e il 24 dicembre. Inoltre, in questo periodo, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, data prescelta per l'Epifania, ancora in epoca romana venivano celebrate una quantità di feste della nascita e del rinnovamento. Ma nonostante tutte queste somiglianze, ci sono anche delle diversità fondamentali. Nel pantheon ufficiale cristiano, l'unica donna è anche l'unico personaggio mortale. Ella viene ancora venerata come madre clemente e misericordiosa, e in certa iconografia, come per esempio nelle Vierges Jouvent, continua a contenere nel proprio corpo il miracolo supremo e il mistero della vita, ma è ormai chiaramente una figura minore. Inoltre la figura mitica centrale di questa religione a dominio maschile non è più la nascita del giovane Dio, è la sua crocifissione, la sua morte. La madre si limita a far nascere il Cristo, è il Padre divino a inviarlo sulla terra, capro espiatorio per emendare la malvagità e il peccato dell'uomo. E per gli esseri umani che è venuto a salvare, la cosa più importante non è il suo breve soggiorno in questa valle di lacrime. Ciò che conta è la sua morte, nonché la sua promessa di una vita migliore dopo la morte, ma solo per quelli che obbediscono fedelmente ai comandamenti del Padre. Per gli altri non c'è speranza neppure nella morte, solo tortura e dannazione eterne. Le immagini religiose non mettono più in rilievo i poteri della Dea che danno la vita, la sostengono e la rigenerano. Fiori e uccelli, animali e alberi sono scomparsi, se non come sfondo decorativo. C'è ancora il ricordo della dea che culla il bimbo divino tra le sue braccia, la Madonna col bambino, ma ormai la mente dell'uomo e della donna è posseduta e consumata da un tema dominante che ricorre in tutta l'arte cristiana. Lo vediamo su numerose tele che raffigurano santi cristiani che tormentano i loro corpi con torture infernali, in tanti dipinti che ritraggono martiri cristiani trucidati con ogni sorta di mezzi crudeli e ingegnosi, nelle raccapriccianti visioni dell'inferno cristiano del Dürer, nel giudizio universale di Michelangelo, in Salomè che danza eternamente con la testa decapitata di Giovanni Battista. Adesso il motivo centrale dell'arte, di cui forse l'espressione più intensa è l'onnipresente Cristo morente sulla croce, non è più la celebrazione della natura e della vita, ma l'esaltazione della pena, della sofferenza e della morte. Poiché in questa nuova realtà, che ora si dice opera esclusiva di un Dio maschio, il calice che nutre e dà la vita come forza suprema dell'universo è stato spodestato dal potere di dominare e distruggere. Il potere letale della spada. Ed è questo potere che ancora oggi continua ad affliggere l'umanità intera, uomini e donne. L'altra metà della storia. Come viaggiatori in una distorsione temporale, grazie alle scoperte archeologiche, abbiamo visitato una realtà differente. Dall'altra parte non abbiamo trovato gli stereotipi brutali di una natura umana invariabilmente depravata, ma stupefacenti scenari di migliori possibilità di vita. Abbiamo visto come nei primi giorni della nostra civiltà l'evoluzione culturale fu interrotta e completamente deviata. Abbiamo visto che quando riprese la nostra evoluzione sociale e tecnologica, essa aveva imboccato una direzione differente, ma abbiamo anche visto che le antiche radici della civiltà non furono mai estirpate. non erano scomparse. L'antica passione per la vita e la natura, l'antica abitudine di condividere anziché portar via, di amare anziché opprimere, l'idea del potere come responsabilità e non come dominio. Ma come le donne e le qualità tipiche della femminità, queste caratteristiche furono relegate a un ruolo secondario. Neanche il desiderio umano di bellezza, verità e giustizia era del tutto scomparso. Era soltanto represso e soffocato dal nuovo ordinamento sociale. A volte capitava che l'antico desiderio continuasse a lottare per affermarsi, ma si andava perdendo sempre più la consapevolezza che il problema di fondo era la strutturazione dei rapporti umani, a cominciare da quelli tra le due metà dell'umanità, secondo gerarchie rigide basate sulla forza. La trasformazione della realtà era stata compiuta così bene che questo fatto, apparentemente ovvio, il modo in cui una società struttura i più fondamentali rapporti umani influisce profondamente su tutti gli aspetti della vita e del pensiero, venne nel corso del tempo quasi totalmente occultato. Di conseguenza, persino le nostre complesse lingue moderne, che hanno termini tecnici per tutto ciò che riusciamo e non riusciamo a immaginare, non comprendono parole di genere atte a descrivere la profonda differenza tra quelle che abbiamo fin qui definito società di tipo mutuale e dominatore. Abbiamo al massimo parole come matriarcato per definire l'opposto di patriarcato, ma queste parole non fanno che rafforzare l'idea prevalente di realtà e descrivono due facce della stessa medaglia. Inoltre il termine patriarcato, che evoca le immagini conflittuali e cariche d'emozione di padri tirannici e di vecchi saggi, non descrive bene neanche il nostro sistema attuale. Mutuale e dominatore sono termini utili per descrivere i due opposti principi di organizzazione che abbiamo esaminato, ma anche se riescono a cogliere una differenza essenziale e si non rendono appropriatamente un punto critico. Ci sono due modi contrastanti di strutturare i rapporti tra la metà maschile e quella femminile dell'umanità, che influiscono profondamente sulla totalità di un sistema. Siamo giunti a un punto in cui, sia per chiarezza che per economia di espressione, abbiamo bisogno di termini più precisi di quelli che offre il nostro vocabolario convenzionale per continuare a dimostrare come queste due alternative influenzino la nostra evoluzione culturale, sociale, tecnologica. Siamo anche in procinto di dare un'occhiata più da vicino alla civiltà dell'antica Grecia, che per prima si distinse nell'espressione di un pensiero scientifico in termini precisi. I due nuovi termini che propongo e che in determinati contesti userò in alternativa a mutuale dominatore derivano da questo precedente. Per descrivere l'autentica alternativa alla supremazia di una metà dell'umanità sull'altra, ossia all'androcrazia, il governo con la forza della parte maschile dell'umanità o con la minaccia, propongo il neologismo Gilania. G deriva dal termine greco gine, che significa donna, e an viene da andros, che significa uomo. La maggior parte dei corsi sulla civiltà occidentale inizia con letture di Omero, brani scelti di filosofi greci come Pitagora, Socrate, Platone e Aristotele, e opere di studiosi classici contemporanei che esaltano le glorie dell'età dell'oro della Grecia di Pericle. Ci viene insegnato che la storia europea inizia con i primi documenti conosciuti della cultura indoeuropea o ariana, Omero ed Esiodo, e che dobbiamo alla straordinaria civiltà della Grecia classica gran parte delle nostre idee sulla giustizia e la democrazia. Talvolta, spigolando ulteriori letture, possiamo scoprire che una certa Temistoclea, una sacerdotessa di Delfi, insegnò l'etica a Pitagora, o che Diotima, una sacerdotessa di Mantinea, fu maestra di Socrate. Potremmo addirittura incappare nella notizia apparentemente singolare che i condottieri di tutto il mondo greco si recavano a Delfi, dove una sacerdotessa detta Pitonessa li consigliava sulle più importanti questioni politiche e sociali del loro tempo. Ma per lo più, in quello che leggiamo difficilmente vengono menzionate le donne, né si accenna a Creta. In effetti rimaniamo con l'impressione che non esistesse una civiltà europea anteriore, che fino all'arrivo dei suoi conquistatori indoeuropei l'Europa fosse abituata da popoli selvaggi, privi di una qualsiasi cultura. Siamo anche portati a credere che quando in Grecia fiorì la prima civiltà europea, in generale le donne non avessero diritti civici o politici, né sicuramente posizioni di potere. Tuttavia, nell'Odissea di Omero, alcuni dei personaggi più forti sono donne. All'inizio Odisseo è prigioniero della ninfa Calipso, che governa l'isola di Ogigia. Quando, grazie all'intervento della dea Atena, Odisseo riesce finalmente a lasciare Ogigia, si scatena una tempesta ed egli scampa all'annegamento grazie a un velo che gli dà la dea Ino. Quest'ultimo lo tiene a galla finché viene sospinto dalle onde sulla terra dei Feaci, dove viene trovato dalla principessa Nausicaa. Alla sfarzosa corte dei Feaci, ritenuta da molti studiosi un fedele ritratto dei palazzi reali micenei, la madre di Nausicaa, la regina Arete, viene onorata dal re come nessun'altra donna e venerata da tutto il popolo che la considera come una dea quando si occupa della città. Dopo aver lasciato la Feacia, Odisseo deve di nuovo affrontare una formidabile schiera di figure femminili, le terribili Gorgoni Scille Caridi, le seducenti Sirene e la potente strega regina Circe. Al suo ritorno a casa, scopriamo che Penelope, la moglie, è una donna forte e determinata. Significativamente sta resistendo a un gruppo di pretendenti che la vorrebbe sposare per ottenere il controllo su Itaca, il che indica fortemente che anche dopo l'invasione achea della Grecia, la successione matrilineare era ancora la norma, oltre che il requisito indispensabile per qualsiasi rivendicazione di sovranità. Abbiamo già visto che i riferimenti che fa Esiodo a una stirpe dell'oro che viveva in serena tranquillità e per cui la terra feconda profondeva i suoi frutti sono ricordi dei coltivatori neolitici più pacifici ed egualitari che già allora erano ricordati solo nella leggenda. Il fatto che nella mitologia di Esiodo la creazione del mondo sia attribuita a una figura maschile chiamata Caos non fa che confermare ciò che già sappiamo grazie alla documentazione archeologica. Il dominio indoeuropeo venne imposto tramite il caos di una massiccia distruzione fisica e di una conseguente disgregazione culturale. L'opera di Esiodo, come quella di Omero, è piena di rimandi a una società e a una mitologia precedenti, più gilaniche. Per esempio, è ancora la terra dall'ampio seno, che come l'antica dea fa nascere il cielo e le alte montagne, liete dimore di ninfe. Ed è ancora, come nella religione più antica, un potere femminile che, senza la dolce unione d'amore, in altre parole da sola, genera il mare. Il mondo di Esiodo è già dominato dal maschio, è bellicoso e gerarchico, ma è ancora un mondo in cui gli antichi valori mutuali, o più specificamente gilanici, non sono del tutto dimenticati. Infatti, per Esiodo, la guerra non è insita nella natura umana, o come affermerà in seguito il filosofo greco Eraclito, non è padre di tutto e re di tutto. Esiodo scrive esplicitamente che la guerra e il dio della guerra, Ares, furono portati in Grecia da una stirpe di uomini inferiore, gli Achei, che invasero la Grecia con armi di bronzo e che alla fine furono seguiti dagli uomini più disprezzati da Esiodo, i Dori, che devastarono la Grecia con le loro armi di ferro. Si potrebbe dire che se Freud e Jung avevano ragione ed esiste veramente qualcosa di simile a una memoria di razza trasmessa geneticamente, questa può aver spinto Esiodo a scrivere di un passato migliore e perduto. Ma una spiegazione più semplice e di gran lunga migliore è che Esiodo subiva ancora l'influsso di storie tramandate di generazione in generazione che raccontavano come era il mondo tanto tempo prima. È significativo ciò che Esiodo dichiara esplicitamente, non da me, ma da mia madre viene il racconto di come un tempo terra e cielo fossero tutt'uno. Ciò non solo indica che la sua opera è davvero basata su storie tramandate da generazioni, rivela anche che sua madre, una donna, trovava ancora sollievo in un mondo ormai a dominio maschile, grazie ai ricordi evanescenti di un'epoca precedente e meno oppressiva. Esiodo scriveva verso la fine del periodo che gli storici definiscono secoli bui della Grecia. Questo periodo terminò agli inizi della Grecia classica, mezzo millennio dopo che le invasioni doriche scaraventarono l'Europa nel caos. Conformemente ai dati archeologici, si può evincere che i primi invasori achei che governavano in epoca micenea e i dominatori dori che li spodestarono fossero in grado di progredire solo dopo aver assorbito gran parte della cultura spirituale e materiale dei popoli che avevano conquistato. Luce ha cercato di ricostruire questo processo. Come un ulivo devastato dal fuoco, la cultura minoica restò inattiva per un certo periodo, scrive lo studioso, poi buttò nuovi germogli all'ombra delle cittadelle micenee. Le principesse minoiche, le figlie di Atlante, si sposarono nelle case dei condottieri micenei, architetti minoici progettarono i palazzi dell'entroterra e pittori minoici li decorarono con affreschi. Nelle mani di uno scriba minoico, il greco diventò per la prima volta una lingua scritta. Poi, dopo il successivo assalto barbaro, anche se sempre più deformati, i germogli minoici rispuntarono. Probabilmente non è un caso che la Creta dorica, nel periodo arcaico, si distinguesse per la perfezione delle leggi e delle istituzioni. La pianta così amorevolmente curata nei lunghi secoli di pace non poteva essere sradicata così facilmente. Innesti dello stesso ceppo furono trapiantati in Grecia, misero radici e fiorirono anche lì. Dunque, anche dopo le devastazioni doriche, non tutto era perduto. Certamente molto è dimenticato e ormai persino il ricordo della civiltà minoica comincia a sfumare nella leggenda. Molto è cambiato, poiché la grande dea, con le sembianze di Era, Atene e Afrodite, è ormai subordinata a Zeus nel pantheon ufficiale greco. Ciò nonostante, ci sono ancora importanti elementi della civiltà greca che si adattano più a una società mutuale che non a una dominatore, o per usare termini più precisi, esse sono più ugilaniche che androcratiche. Una delle prime manifestazioni della civiltà greca fu la comparsa dei cosiddetti filosofi e scienziati pre-socratici. È stato fatto notare come la loro visione del mondo, che anticipò idee che in molti ancora oggi considerano sconvolgenti, sia stata il primo approccio laico e scientifico alla realtà. Per la prima volta nella storia documentata, infatti, la conoscenza non dipende più da una rivelazione divina mediata da miti sacri e riti religiosi, ma da fatti dimostrabili e confutabili empiricamente. Per esempio, in Omero l'arcobaleno viene ancora identificato con la dea Iride. In Anassimene, filosofo e scienziato presocratico, esso è prodotto dai raggi del sole che cadono sull'aria densa e umida. E tutto questo senza macchine per fare ricerche scientifiche. Sotto questo aspetto, le idee di filosofi presocratici come Xenofane, Talete, Diogene e Pitagora rappresentavano sicuramente una brusca rottura con la precedente visione religiosa del mondo, ma la cosa straordinaria è che per molti versi le ipotesi fondamentali di questi filosofi si adattano meglio all'antica visione del mondo più gilanica che a quella successiva androcratica. Per esempio, il filosofo e scienziato presocratico Xenofane sosteneva che l'universo è retto da un'intelligenza infinita e onnipresente, e questa visione è antitetica alla visione del mondo espressa dal pantheon ufficiale dell'Olimpo, che si rifaceva a Zeus come padre di tutti gli dèi. Questo universo retto da un'intelligenza infinita e onnipresente assomiglia moltissimo all'idea monoteista della grande madre neolitica. Nel VI e V secolo a.C., per esempio, i filosofi Anassimandro, Zenone e Empedocle formularono il concetto dialettico di equilibrio degli opposti come principio essenziale del mutamento e della stabilità. Beh, nella ceramica decorata della cultura europea neolitica di Cucuteni, pressappoco della metà del IV millennio a.C., la tensione tra coppie opposti è un tema ricorrente. La dinamicità della natura e il suo rinnovamento periodico, negli apparenti opposti di nascita e morte, era al centro dell'antica mitologia religiosa. La dea incarnava sia l'unità che la dualità della vita e della morte. Similmente nella dea si fondevano i principi contraddittori di maternità e verginità, e spesso si congiungevano anche mascolinità e femminilità. Nelle prime immagini androgine della dea e nei successivi rituali del matrimonio sacro. Infatti la nascita e la morte di tutta l'umanità e di tutta la natura, nell'antica mitologia religiosa, erano manifestazioni della giusta posizione dell'unità essenziale dei poteri creativi e distruttivi della dea. Si sa che Pitagora ricevette buona parte della sua dottrina etica da Temistoclea, una sacerdotessa di Delfi. Si dice anche che introdusse proprio Pitagora l'antico misticismo nella filosofia greca e addirittura che egli fosse un femminista. Nella sua riforma della religione misterica orfica sembra che Pitagora abbia anche dato importanza al culto del principio femminino. E Diogene ci racconta che le donne nella scuola pitagorica studiavano insieme agli uomini. In una società fortemente androcratica come quella della Grecia classica, per alcune donne la professione di etera offriva un'alternativa più indipendente e relativamente rispettata rispetto al ruolo subordinato di moglie. Sebbene le etere siano state erroneamente considerate delle prostitute, gli antichi greci non la pensavano così. Le etere erano più simili alle cortigiane che nell'Europa del XVII e XVIII secolo spesso esercitavano un considerevole potere politico. Erano abili ospiti, intrattenitrici, dalla cultura e dagli interessi diversificati. Ma ciò che più interessa sono le testimonianze che riportano di etere che furono studiose e persino personaggi pubblici di spicco. Le etere della città-stato della Ionia e dell'Eolia erano considerate le migliori. Due delle discepole più famose di Platone erano l'Astenia di Mantova e Axiotea. Si ritiene che Aspasia, che tanto contribuì alla cultura ateniese come compagna di Pericle, fosse un'etera. E ad un certo momento si formò anche un movimento per il ritorno a un'organizzazione sociale in cui una metà dell'umanità non prevarica l'altra, forse qualcosa di simile al movimento per la liberazione della donna. Esso viene sarcasticamente menzionato nelle satire misogine di uomini come Aristofane e Cratino, che parlano di donne che si riuniscono in gruppi e si esprimono in maniera sconveniente, il che indica, tra virgolette, il loro desiderio di essere uomini, secondo gli autori. È probabile che le donne che si incontravano regolarmente e frequentemente alle feste religiose e ai raduni per sole donne, dove adoravano una divinità femminile, conservassero un forte senso di identità femminile. Così, fino in epoca storica avanzata, molte donne greche conservarono una fonte di potere che mancava a quelle della maggior parte delle culture occidentali, dove alla fine la dea fu sepolta o completamente cancellata. Quello che forse era un movimento pacifista, organizzato, femminile, assai simile a quello contemporaneo, è documentato in maniera per noi molto eloquente nelle commedie greche pervenuteci, come la celebre Lisistrata di Aristofane, in cui le donne minacciano di negare i loro favori sessuali finché gli uomini non cessino le loro guerre. Che questo tema sia stato sviluppato in un'intera commedia da un autore comico estremamente popolare rivela sia la probabile forza del movimento, sia la strategia ancora oggi tipica delle società a dominio maschile, mantenere il controllo maschile sulle donne, mettendole in ridicolo e sminuendole. Questo espediente detrattorio, oltre a quello, per la verità ancora più comune, di limitarsi a omettere i dati che riguardano le donne, ha caratterizzato gran parte delle cronache storiche greche. In queste, come nei libri di storia di qualsiasi altro luogo, tutto ciò che riguarda le donne è di fatto considerato secondario o più spesso semplicemente viene omesso. Gli storici tradizionali hanno di conseguenza trascurato pesantemente le attività delle donne che si davano da fare per una società giusta e umana. Ma con la scoperta di sempre nuovi dati, la nostra storia perduta dimostra che queste attività erano estremamente significative. Infatti, come vedremo meglio più avanti, questi dati rivelano che in Grecia e anche altrove le donne, se solo ne avevano la possibilità, lavoravano attivamente per rendere valori femminili come la pace e la creatività priorità sociali operanti. La sistematica omissione delle donne dai resoconti del nostro passato serve a mantenere un sistema basato sulla gerarchizzazione maschile e femminile, sopra i maschi, sotto le femmine. Essa rafforza l'assunto principale del dominio maschile. La donna non è importante quanto l'uomo. E nonostante il fatto che Temistoclea, che educò Pitagora, e Diotima, che educò Socrate, fossero sacerdotesse, depositarie e divulgatrici di tradizioni religiose e morali preesistenti, la religione ufficiale greca era nei suoi punti chiave un culto dominatore. Zeus instaura e mantiene la sua supremazia con atti di crudeltà e barbarie, tra cui numerose violenze carnali a dee e donne mortali.